Pietoso Dio d'amor, poiché ti piacque trarmi dentro i tuoi nacci in dolce servitù, vibra nel cuore d'angelica lamento un stranissimo accende, onde per me s'accenda e muovi al fine. Adorato Roger, qui Orlando, Orlando, prudente, come tu qui il mio Roger in traccia, e la destra e la fede di sposo non ti die, sorte romenta, per disusata via, poi me la ritolse, cinturata, la saggia incantatrice Melissa a me predisse, carder qui dei il mio bene, al magico poter del cino al fuoco. Consolati, cugina, la Gigi il nostro oggi non niente lieti sarem, ma tu come dal cielo osasti nella reggia interrar ne tuoi tanto noti arnesi e sol e meco la possente Melissa in questo anel contro gli canti e l'arti della maga infedel o validarne ora ti intendo. E questi il prezioso anello che da ogni campo serva il leso che porta e lo nasconde se tra le labbra e chiude agli occhi altrui. Potrà però il guerriero usato arnese l'onorata tua famosa spada rende sempre più vano il tuo pericolo. Generoso è il consiglio, ma la maga crudele nasconderò il mio nome, ne mostrerò quest'aria mia guerriera, tanto men bradamante rassembrerò a colei.